Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, siamo insieme, questa è una bella cosa. Abbiamo Giorgio Mattei in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il nostro numero verde già attivo 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666. Andiamo a sentire di che cosa parleremo oggi. Riposo, dove, come, quando e perché. Non correre se non sei allenato, pensa alla tua anca. La TV non porta buon sonno. Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro. Plutarco. Tante volte, specie in questo momento dell'anno, sentiamo, almeno a me capita, proprio il bisogno di staccare la spina, ed è giusto che sia così. Abbiamo bisogno di riposarci e sogniamo il luogo, il modo ideali per farlo. Possono bastare a volte pochi minuti rubati al tran tran della quotidianità, a volte sono invece necessari giorni. Molti di noi riescono a raggiungere il loro scopo, hanno ben chiaro cosa, dove e come fare per raggiungerlo. Per altri la ricerca è ancora in corso e la stanchezza, lo sappiamo, confonde, a volte è davvero una cattiva consigliera. Così può capitare, sarà successo anche a voi, che gli spazi, i momenti dedicati al riposo diventino non l'occasione per ricaricarsi, ma un'ulteriore fonte di stress, stanchezza e delusione. Allora, oggi vi invito a raccontarci se riuscite a riposarvi e soprattutto cosa fate, no? Quali sono i luoghi, i momenti che voi vi ritagliate per voi stessi e che risultati soprattutto ottenete. 800 24 0024, questo è il numero verde. Mi piacerebbe trasformare la puntata di oggi in una sorta di corso di coccoloterapia. In fondo, riposandoci ci coccoliamo perché ci prendiamo cura di noi. Ma ad aiutarci in questo piacevole compito abbiamo due esperti. Saluto subito la dottoressa Sara Viola, che è medico e psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buon riposo, buone vacanze a tutti. E abbiamo in linea con noi, dottoressa Viola, un cavaliere che è niente po' di meno che il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, il dottor Gargiulo non ha bisogno di presentazioni perché lo vediamo tutte le domeniche alla puntata di Elisir, ma è medico di famiglia oltre che consulente medico di questa trasmissione, che ha molto successo. Allora, dottor Gargiulo, dato che è il nostro cavaliere, io inizio subito da lei perché vorrei capire qual è il suo momento perfetto e qual è il luogo in cui si rifugia o amerebbe rifugiarsi per ritrovare carica, energia, riposo, relax. Aggiunga lei la parola ideale. Ma dunque, il momento perfetto, se vogliamo dire, nell'arco della giornata è la sera, quando sono andati tutti a letto a casa mia e quando casa scende in quel silenzio meraviglioso dove uno può veramente riacchiappare i suoi pensieri, e quindi lì quotidianamente cerco di trovare quella mia mezz'ora di relax totale che mi consente di affrontare poi gli impegni della giornata successiva. Invece, se vogliamo parlare di vacanze, il mio momento di relax è la montagna. Se io riesco a stare in montagna, in un posto dove non si sentano i rumori della città, dove arrivino soltanto i rumori della natura, e io posso guardare anche solo le montagne, non sono un gran passeggiatore, ma anche solo guardare la bellezza e la maestosità delle montagne, beh, direi che quello è il massimo, per me il massimo per raggiungere il relax che mi serve. Chissà quanti dei nostri amici da casa si possono riconoscere nel profilo tratteggiato dal dottor Gargiulo, ma io voglio approfittare della nostra dottoressa Viola per capire che idea si è fatta di questo dottor Gargiulo, che aspetta la sera per riposarsi quando la casa è tutta in silenzio, che ama la montagna, che si rigenera anche solo a guardare il panorama. L'idea che mi faccio immediatamente, forse anche un po' fuorviata dal fatto che so che cosa fa il dottor Gargiulo nella vita, è che lui abbia bisogno assolutamente di non avere intorno a sé nessuno, soprattutto nessuno che abbia dei problemi per ricaricare le batterie. E devo dire che in questo mi sento molto simile a lui. Il medico proprio si ricarica di solito quando scende il silenzio intorno a lui, quando nessuno fa domande, quando nessuno ha questioni da risolvere che siano urgenti. E poi la montagna, a mio modo di vedere,

Allora, sì, parliamo di riposo, torniamo a parlare di riposo. Riuscite a rilassarvi anche nell'arco della giornata? State pensando alle vacanze? Qual è il vostro sogno? Che cosa state pensando? Raccontateci il momento e il luogo ideale per ricaricarvi. 800 24 0024, ci scrive Katia da Bologna, ad esempio: prendo le scarpe da corsa in mezzo al verde con andatura lenta, mi rilasso, oppure dipingo. Ma sono tanti i messaggi che stanno arrivando, ma prima darei la parola a Vittorio, che ci chiama da Bolzano. Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Vittorio, lei cosa fa per riposarsi? Allora, devo anticipare che non ho mai avuto problemi di sonno, quindi ho avuto un sonno regolare. Sinceramente sono uno sportivo, per cui alla sera crollo dopo aver praticato attività sportiva. Sì. Però potrei dare qualche suggerimento che secondo me potrebbe essere molto utile, perché è servito anche ad altre persone. Ovviamente poi ad ogni persona funziona un metodo, no? Sì. Allora, innanzitutto, se possibile, riposare una volta in più durante la giornata, magari prima di mangiare, se chi ha la possibilità di farlo, riposarsi una decina di minuti. Magari, però sempre prima di pranzo. Sì. E anche la sera, magari prima di cenare, una decina di minuti, un quarto d'ora. Ma la cosa molto importante, secondo me, è quella di... Sono due, diciamo, le cose importanti. Una è il respiro. Sì. Usare il respiro. Quindi ci si potrebbe mettere in piedi, respirare a pieni polmoni, senza pause, per 100 respiri, 50, quello che si riesce a fare. Sì. Girerà un pochino la testa, c'è un pochino di iperventilazione, e poi si riesce a riposare molto bene. Oppure, secondo me, il sistema più utile è quello della meditazione, che ho imparato praticamente da un tale Neil Donald Walsh. Ha fatto un corso di un fine settimana, e la cosa più importante che ha detto è quello di concentrarsi su un punto in mezzo alla fronte, sì, o in mezzo agli occhi. Sì. Possibilmente sarebbe meglio farlo più volte durante il giorno. Allora, così la mente praticamente è quella che non ci permette di dormire, no? Sono i pensieri ripetitivi. E quindi lei ha adottato questa tecnica di meditazione, funziona? Funziona assolutamente. Ma io la ringrazio, Vittorio, perché è diventato... Ciascuno di noi nella puntata di oggi può diventare coach, e quindi insegnare ai nostri ascoltatori una strada, una ricetta, un trucco per rilassarsi. E io chiederei ai nostri ospiti, al dottor Gargiulo e alla dottoressa Viola, un giudizio sulle iniziative che ci suggerisce Vittorio. Dottor Gargiulo, questa respirazione... Ma sicuramente le tecniche di respirazione sono quelle che aiutano nei momenti di stress. Noi lo diciamo, io consiglio ai miei pazienti, quando devono affrontare un problema e si accorgono di avere un eccesso di stress, di iniziare una ventilazione controllata, di focalizzare la mente magari su punti diversi del rispetto a quello che è l'impegno che devono affrontare, quindi utilizzare dei sistemi, poi come diceva giustamente il nostro ascoltatore, ognuno avrà il suo, dei sistemi che consentano di spostare il punto di focalizzazione dall'evento che ci deve preoccupare, che è il lavoro, che è magari lo stress, che è il momento difficile, ad un evento che è un pochino più piacevole, e quindi ci allarga la mente. Questo consente di essere più tranquilli, e quindi è utile anche il discorso nel riposo. Se vogliamo riposare appieno, dobbiamo scaricare il cervello da tutte quelle valenze negative che abbiamo accumulato con il lavoro. Dottoressa Viola. Sicuramente i consigli del nostro ascoltatore di Bolzano sono preziosissimi, e dal punto di vista psicologico non può che essere così, perché noi utilizziamo tantissimo le tecniche respiratorie, le tecniche di rilassamento, il training, anche proprio per brevissimi minuti nell'arco della giornata. Devo però ricordare che esistono persone, purtroppo, che da questo tipo di pratiche ricevono stimoli ansiosi anziché rilassanti, cioè l'improvviso fermarsi di tutto e l'ascoltare il ritmo del proprio respiro per qualche soggetto è addirittura controproducente. E allora quei soggetti che sono portati a fare le cose più che ad ascoltarsi, io consiglio sempre di dedicarsi a piccolissime attività concrete, molto semplici, magari creative, come, che ne so, cucinare piuttosto che mettere a posto un cassetto che da tempo dovevano sistemare, ma che non impegnino assolutamente la mente, che spezzino sicuramente il filo dei pensieri ripetitivi, ma che non restituiscano alla cosiddetta pace e silenzio, perché a volte il silenzio e l'ascolto di noi stessi per alcuni soggetti è fonte di ansia e di stress. Infatti ci sono delle persone che per riposarsi hanno bisogno di non fare nulla e ci sono invece delle persone che per riposarsi hanno bisogno proprio di muoversi. Intanto voglio leggervi una carrellata di messaggi che stanno arrivando. Ci scrive Fulvio: io mi rilasso quando pulisco la mia moto, è una specie di training autogeno, mi è strano come un bonzo in meditazione. Dottor Gargiulo, lei ha una moto? No, io non ho una moto. Simpatico, non posso, Fulvio. Non posso rilassarmi così. Allora, quattro chiacchiere con gli amici, da soli il relax si trasforma in noia. Dottoressa Viola, ci sono persone che hanno bisogno, oltre che di fare qualcosa, di stare sempre in compagnia. Ecco, la relazione con gli altri è uno degli aspetti più importanti e problematici del riposo, perché è molto diverso riposarsi da soli o essere circondati da amici o anche dai nostri familiari, e bisogna stare molto attenti alle compagnie che si scelgono quando si vuole riposare, perché si possono avere anche delle brutte sorprese. Si possono cioè organizzare momenti di riposo, di ricarica con amici che sono magari conosciuti e consolidati, e poi scoprire invece che in vacanza l'amicizia non funziona con queste persone, perché si creano correnti imprevedibili prima, quindi molto difficili da immaginare a priori, che in realtà poi portano a essere ancora più stressati. Quindi la cosa migliore, secondo me, è sperimentare le compagnie che si intendono invitare in vacanza in piccoli assaggi, magari il weekend, magari brava, due giorni. Quanto è saggia la dottoressa Viola. Allora, Luca da Rovigo: dottor Gargiulo, è un tipo dottor Gargiulo, perché dice: anche il mio relax è la montagna, le mie vacanze estive sono lì e torno sempre rigenerate. Allora, dottore, vorrei approfittare di lei per scegliere la località di vacanze insieme, perché anche la meta di un viaggio può essere già in sé parte della, tra virgolette, terapia. Ci proviamo? Certo, assolutamente sì. Vogliamo partire dalla montagna e quindi cominciamo a raccontare ai nostri amici che intanto la montagna al di sopra di una certa altitudine, però parliamo di altitudini importanti, perché sì, d'estate magari si raggiungono, cioè sopra i 2000-2500, può dare qualche problema a chi soffre di problemi respiratori o a chi soffre di problemi cardiaci, ipertensione in particolare. Questo perché a quei livelli la tensione d'ossigeno è più bassa e quindi la respirazione diventa un po' più faticosa, occorre un ambientamento migliore. Se dobbiamo considerare una vacanza di questo tipo, che ripeto non è controindicata, però teniamo conto di tempi un pochino più lunghi, perché avremo bisogno di un ambientamento progressivo. Poi l'altra cosa da raccontare è quando in situazioni di montagna, di alta montagna, si decide di fare un'escursione ancora più in alto, attenzione al famoso mal di montagna. Salire bruscamente sopra i 2.500, i 3.000 può portare a questa sensazione improvvisa di svuotamento della testa, vertigine, senso di affaticamento. Non vi preoccupate, basta scendere di nuovo, di solito si va su con la funivia per poi iniziare l'escursione, scendere di nuovo più in basso di 500-600 metri, assumere se è possibile una bustina di zucchero, aspettare riposando e poi magari riprovare, se non lo stesso giorno, il giorno dopo, per riuscire di nuovo ad arrivare più in alto. Con queste precauzioni la montagna può essere indicata un po' a tutti quanti. E se invece scendiamo al mare, ecco, lì bisogna stare attenti a chi soffre di tiroide, chi ha problemi di ipertiroidismo, il mare può non essere indicato, in particolare le giornate ventose, quelle con il mare morto, fare sulla riva del mare, nei soggetti ipertiroidei può dare un ulteriore aumento della funzione tiroidea e qualche sensazione di fastidio, tachicardia, sensazione di affaticamento, facile eccitazione, quindi attenzione anche a quello. Sempre sul mare, per i bambini, attenzione nelle ore calde della giornata. Li esponiamo al sole, soprattutto non li esponiamo al caldo, che quello può essere particolarmente pericoloso. Poi magari parleremo anche di queste giornate così torride che abbiamo oggi, ma queste anche in città. Però al mare, ecco, è importante che i bambini a mezzogiorno, ora solare, mezzogiorno massimo, come ora solare, siano riportati a casa, al fresco, magari in pineta, magari in un ambiente dove possono ritemprarsi senza essere sottoposti allo stress del caldo eccessivo. Ecco, dottoressa Viola, i bambini hanno anche bisogno di annoiarsi un po'. Assolutamente. Invece noi genitori siamo sempre preoccupati di impegnare le loro giornate. Allora cosa gli faccio fare adesso che non va a scuola? Fa il corso, fa di qua, fa di là, poi va a correre, poi gioca a tennis, poi ritorna. Ecco, lasciamo un po' annoiare i nostri bambini. Direi che i bambini bambini finiscono l'anno scolastico stressati quanto i loro genitori dalle mille attività che sono abituati a svolgere, e poi ci sono delle forme di prolungamento dell'anno scolastico che, per carità, ben vengano, i centri ricreativi estivi, ben vengano, dico, per i genitori. Assolutamente, certo. Però teniamo conto che il vuoto, l'assenza di impegni, il non avere nulla da fare è necessario per i bambini, anche proprio per reimparare a giocare, perché i nostri bimbi giocano pochissimo, se intendiamo come gioco proprio lo spendere il tempo nella fantasia. E allora mi piace ricordare che anche per gli adulti usare la fantasia è un modo importante per ricaricarsi di energie. Andiamo a Roma, ci aspetta Roberto, 824 0024, vediamo se ha una ricetta oppure una domanda da fare. Roberto. Sì, entrambi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, riposo per me, questo sconosciuto quasi, per lavoro. Il dottor Gargiulo parlava di andare in alto, io ci vado molto in alto, ma in cosa aereo. Fa? Sono un assistente di volo. Oh, che faccio bel lavoro. Faccio prevalentemente voli intercontinentali, quindi mi sposto da una parte all'altra, e si vola spesso di notte, quindi si è costretti a stare svegli quando si dovrebbe riposare e viceversa. E viceversa. Esatto, e io adotto una chiamiamola tecnica, comunque quella di stare più o meno 10-12 ore sveglio e riuscire a riposarne un paio, e per poi ricontinuare a stare sveglio quelle altre 10-12 ore che mi servono per finire il turno. E il problema diventa quando poi si ridiventa terrestri. Quando si ridiventa terrestri è carina, esatto. Roberto, sì. E allora lì è dura. Lì diventa un po' più complicata. Io risolvo a volte un po' con l'alimentazione, se posso, ma spesso con dei CD che riproducono un po' i suoni della natura, dallo sciabordio dell'acqua a quello può essere un po' la pioggia di una foresta pluviale. Ho preso dei vari CD e quelli mi aiutano un po'. Allora anche lei, Roberto, ci ha aiutato molto raccontandoci che cosa fa per passare da Roberto celeste a Roberto terrestre, ma io volevo un flash, un aiuto dalla dottoressa Viola e dal dottor Gargiulo. Dottoressa Viola, Roberto si rilassa ascoltando musica, questa è una cosa che di solito funziona. Assolutamente sì, naturalmente ciascuno di noi ha la sua musica ideale, quella per essere attivo o quella per riposare, ma la musica ancora una volta aiuta a lasciarsi andare alla fantasia e all'immaginazione, e la musica è uno degli strumenti, dei veicoli verso i nostri desideri e verso le nostre fantasie più immediato e che funziona meglio. Sì, ha un suggerimento? Un suggerimento è anche quello che diceva il nostro ascoltatore, di recuperare i rumori della natura, perché uno degli aspetti fondamentali del nostro stress è la distanza dalla natura, per cui questi CD che riproducono il rumore dell'acqua, del mare, il canto degli uccelli, il vento, sono assolutamente utili, anche perché comunque la musica ti impone di seguire la trama del discorso musicale. Questi CD ti lasciano proprio evadere completamente. Dottor Gargiulo, stiamo per andare ai mercati, un consiglio rapido per il nostro amico quando hai piedi, per tenerlo coi piedi per terra. Ma quando lui ha un doppio jet lag, perché lavora sulle tratte intercontinentali, quindi soffre dei cambi di fuso orario e lavora di notte. Sì. E forse questo doppio jet lag lo compensa con quelle due ore di riposo, che se per lui sono sufficienti vanno benissimo. Quando rientra a terra, forse l'uso della melatonina potrebbe essere indicato se ha difficoltà nel recuperare le ore di sonno e di veglia. Di tanto in tanto bisogna dar riposo all'animo, affinché poi sia più sveglio nel pensare. Fedro. Dove, come, quando e aggiungo nel caso con chi vi riposate, preferite la solitudine o la compagnia di un amico, di un vostro familiare? 824 0024 e per voi riposo è non fare nulla o impegnarsi in altre attività? Direi di cogliere l'attimo, di chiamarci, di suggerirci la vostra ricetta, il dottor Gargiulo in linea con noi, come anche la dottoressa Sara Viola. E ci ha raggiunto Roberto, che ci chiama da Lucca. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei, al dottor Gargiulo e alla dottoressa Viola. Io ho chiamato perché non riesco più a rilassarmi. No, è troppo stanco, Roberto. Troppo, ma no, riposo bene, però non... da quando è successo un episodio 8 anni fa è morto mio padre, io ho 50 anni, non riesco più a rilassarmi. Né in vacanza né... Non si ricarica più. Mi ricarico più. Ecco, dottoressa Viola, è un problema diffuso in modo più o meno serio, questo di non riuscire nonostante tutto a recuperare quelle energie che il lavoro, la vita quotidiana ci prendono. Soprattutto quando, come nel caso di Roberto, ci sono dei pensieri che interferiscono alla possibilità di rilassarsi, perché Roberto ha identificato un momento ben preciso, un grande dolore, un dispiacere forte, non ancora forse del tutto superato. E allora volersi rilassare a tutti i costi può diventare uno stress sopra lo stress, e direi che a questo punto, siccome è necessario che il nostro corpo, se non almeno la nostra mente, trovi un momento di riposo, accettiamo il dato psicologico di non riuscire a rilassarci, mettiamolo in conto, non cerchiamo di negarlo, di superarlo a tutti i costi, quindi facciamo vacanza per ritemprare il corpo, ma non cerchiamo ostinatamente quella sensazione di benessere e di rilassamento che non avremo assolutamente se soprattutto cerchiamo di forzarne la conquista. Lasciamoci andare al fatto che ci sono fasi anche lunghe nella vita in cui la percezione di essere rilassati è proprio, come dire, chiusa a noi, e che poi comunque, superato questo periodo, magari anche con l'aiuto di qualche consiglio tecnico, ritroveremo la serenità. Dottor Gargiulo, la dottoressa Viola mi suggerisce una domanda da fare a lei. Il nostro amico non riesce a staccare la testa a livello proprio, no? Non riesce. Ecco, però la dottoressa Viola dice: bene, accettiamo questo fatto e cerchiamo di regalarci la vacanza in ogni caso, perché i benefici arrivano ugualmente. Ma dunque, intanto, prima di accettarlo, io darei un consiglio al nostro ascoltatore: attenzione a quella che è la sindrome da stanchezza cronica, che a volte si può manifestare anche con disturbi di questo tipo. Quindi cerchiamo di capire se non ci troviamo di fronte ad una patologia ben determinata sulla quale poi si può intervenire e può cercare di risolvere il problema. Dopodiché, se non ci troviamo... E questo come farà a scoprirlo? Deve parlarne con il suo medico? Deve parlarne con il suo medico per essere indirizzato in uno dei centri. In Italia ce ne sono 2 o 3 che funzionano molto bene, dove potrà essere fatta eventualmente questa diagnosi in base a tutta una serie di elementi che vengono valutati e studiati. È una diagnosi che noi diciamo noi per esclusione, quando vediamo che non c'è nient'altro e esiste questa stanchezza, questa incapacità di recuperare, probabilmente ci troviamo di fronte ad un problema di questo genere. Se invece non esiste nessun problema, per cui alla fine è soltanto un fatto psicologico, beh sì, sicuramente la dottoressa Viola ha ragione, forziamoci a riposare, nel senso che otterremo quel riposo fisico che poi in qualche modo influirà anche sul nostro cervello, ma soprattutto servirà a recuperare le energie che noi spendiamo quotidianamente per muoverci, per camminare, per lavorare, per fare tutte le attività quotidiane che sono attività stressanti. E io suggerisco al nostro amico, leggo alcuni sms dei nostri amici da casa che ci offrono qualche spunto. Una sauna al giorno toglie il medico di torno, provare per credere, ci scrive Antonio da Verona. La passeggiata con Aurelio, il mio Labrador, che mi fa correre ma anche conoscere nuovi amici. Il mio momento è la favola della buonanotte. Quando mio figlio si addormenta tenendomi la mano, la mia stanchezza svanisce e io mi sento forte come una montagna. Questo ci scrive Alessandro. E per la gioia di quanti, e sono tanti, mi hanno scritto, mi riposo facendo le parole crociate, è in linea con noi Stefano Bartezzaghi, un grande esperto di giochi intellettuale, curatore della rubrica Lessico e Nuvole sul venerdì di Repubblica. Buongiorno, sono onorata. Buongiorno, onorato io. Buongiorno, devo dire che lo spunto di questa trasmissione ce l'hanno fornito 2 o 3 mail che sono arrivate dei nostri ascoltatori, che ci raccontavano come si riposavano, si rilassavano facendo le parole crociate, e ci chiedevano come mai, no? Se c'era che cosa ha di strano, di particolare, l'enigmistica per allenare il cervello, quindi farlo lavorare, e nello stesso tempo rilassare la mente. Allora abbiamo pensato che da lì riposo, eccetera, e poi siamo arrivati a lei, e per me è un grande onore. Può rispondere lei allora a questa domanda, dottor Bartezzaghi? Ma Ma spero di sì. Io sento che voi state trattando argomenti molto molto seri e ovviamente le parole crociate diciamo subito sono un gioco. Non è che abbiano una non nascono per avere una funzione. Poi se questa funzione la trovano nel cammino, tanto di guadagnato. Effettivamente nel corso del secolo, insomma, ormai qui ci sono state le parole crociate, si sono osservate dei fenomeni a volte anche particolari. Per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale i giornali diventavano sempre più piccoli, e però le parole crociate venivano mantenute perché si capiva che avevano davano un momento di spensieratezza. Anche c'erano parole crociate anche nei giornali che andavano alle truppe al fronte. Per cui il fatto di concentrarsi per un intervallo di tempo, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, sfidando la propria memoria su degli argomenti che non sono gli argomenti che a volte ci ossessionano della nostra vita quotidiana, è appunto è una specie di oasi. E poi quando si finisce si ha la soddisfazione di esserci arrivati, perché normalmente poi ci si arriva e insomma si è pensato ad altro. Questo di per sé è un sollievo, e nello stesso tempo non è passivo, perché siamo, mentre risolviamo, siamo continuamente stimolati, insomma ristorano. Chiedevo un parere al dottor Gargiulo, non so se si appassioni all'enigmistica, e alla dottoressa Viola. Ma dunque, io sono stato un appassionato, non ad alti livelli, però mi piacciono molto ancora le parole crociate, le faccio volentieri. Si rilassa? Devo dire che mi rilassano, sì, decisamente sì, anche perché servono ad impegnarmi in momenti diversi della mia professione. Dottoressa Viola? Devo dire che sono stata gratissima a mio figlio di 19 anni che quest'anno proprio all'aeroporto, in partenza per la vacanza, ha acciuffato una rivista di enigmistica in edicola e l'ha portata con sé, e ho riscoperto il piacere dell'enigmistica che avevo dimenticato da quando ero ragazza, soprattutto perché ho ritrovato quel momento di aggregazione familiare, perché siamo tutti uniti nel voler, come dire, completare lo schema, sì. E c'è sicuramente anche la voglia di dimostrare che sai la risposta, che sei più bravo, ma è una competizione che allea, perché in fondo l'obiettivo è quello di completare lo schema. Quindi ho trovato l'enigmistica anche come momento di aggregazione, di solidarietà, è vero, e di alleanza familiare. Io devo sempre allenarmi, e lo dico a Stefano Bartezzaghi che sorriderà, perché sennò non ce la faccio mai, per cui io faccio quello che è un po' la spalla. Ogni tanto ho delle intuizioni brillanti, ma sennò sono molto scarsa. Ma che cosa fa Stefano Bartezzaghi per riposarsi? Beh, io appunto sono un caso curioso, perché anche se sono un enigmista un po' di complemento, perché appunto gli enigmisti, i cruciverbisti proprio attivi della mia famiglia sono stati prima mio padre e poi mio fratello, mentre io poi scrivo, però insomma di fatto la mia passione giovanile è diventata il mio lavoro, per cui molto spesso nel momento in cui smetto di lavorare, quindi magari smetto di fare cruciverbi, verba, ricomincia a farne, questa volta per piacere mio. Insomma, sono un po' un caso limite, temo. Un caso limite. Allora, provare il libro, ci scrive Attilio, di Stefano Bartezzaghi, il libro dei giochi per le vacanze. Ah, e quindi Attilio, okay. Ecco, invece io devo dire che suggerisco solo i libri che mi piacciono e che leggo. Io mi sono divertita molto, ho trovato bellissimo, non ne ho più la squallida idea, Frasi matte da legare, che io devo dire consiglio, perché è una bella lettura, lei scrive, ha una penna bellissima e sono veramente un bel passatempo, però di quelli che allenano la mente, adatto anche a chi con l'enigmistica poco a che fare. Dottor Bartezzaghi, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon riposo, buon gioco, buon grazie tutto. A voi, grazie. Buon riposo e buon lavoro, nel mio caso coincidono. Grazie, arrivederci. Siamo tornati insieme e voglio leggervi il messaggio di Max da Como. Cara Nicoletta, ad ascoltare questa trasmissione mi viene da sorridere. Il motivo? L'ultima volta che sono andata in ferie era il 1992. Quindi ho dovuto sviluppare tutta una serie di tecniche personali per rilassarmi nonostante tutto. Ed evidentemente c'è riuscito, perché dottor Gargiulo, è importante. È importante che riposarsi per ricaricarsi, sennò alla fine si va in riserva. e insomma si raschia in fondo al barile, può essere veramente un pericoloso per la nostra salute anche. Veramente sì, è proprio il momento in cui noi raschiamo il fondo del barile, come dicevi, è il momento in cui noi arriviamo in quella condizione di distress, cioè di stress negativo, di stress dannoso per l'organismo, che è quello che ci ha portato ad essere sempre in prima linea continuamente per ore e ore e ore e che non siamo riusciti a dominare in nessun modo. Ecco, dei momenti di relax, di stacco, dei momenti in cui ci sentiamo tranquilli, un po' erano quei momenti in cui i nostri antenati rientravano finalmente nella caverna dopo una giornata di caccia. Beh, ecco, quelli sono i momenti in cui possiamo ricaricare le nostre batterie. Anche coloro che fanno un lavoro piacevole, un lavoro per cui lo stress è tante volte uno stress positivo, ci sono però dei momenti in cui superano il limite, stare sotto tensione tanto a lungo. Io faccio il paragone dell'elastico: tenere un elastico tirato troppo a lungo significa fargli perdere la sua elasticità. Lo stesso succede con il nostro organismo. Quindi durante la giornata e durante la settimana è indispensabile trovare i momenti per ricaricarsi. Andiamo alla Spezia perché c'è Gianni. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Che fa il nostro caro Gianni? Beh, in effetti sono anch'io un po' affetto da iperattività e trovare momenti di relax non mi è molto semplice. Diciamo che spesso nel fine settimana mi rilassa e mi dà un po' di serenità il mettermi a cucinare. Io ho sempre avuto questo hobby, mi piace molto. È vero, è magnifico. Ma Gianni, lei è forte sulla carne o sul pesce? Sul pesce, immagino. Ma sì, in effetti, stante la zona di residenza, sul pesce. E poi lì si mangia bene, Quindi lei si rilassa nel fine settimana con la cucina. È proprio quello che diceva la dottoressa Viola. Se non riuscite a riposarvi, proprio non facendo nulla, impegnatevi in attività piacevoli. Dottoressa Viola, così ci guadagniamo un invito a cena da Gianni. Ecco, è vero che si riposa di più invitando gli amici? Assolutamente sì, non me ne vogliono però le casalinghe, giustamente, che invece non vedono l'ora che arrivi il weekend perché qualcuno le porti a cenare dove altri fanno da mangiare. Bravo. Ognuno di noi si deve riposare spezzando la propria quotidianità. Per cui ben venga Gianni che inviti tutte le sue amiche casalinghe a mangiare da lui. Ecco, mi raccomando, e ricordatevi, mariti, compagni, fratelli, ogni tanto invitateci a cena fuori e noi stacchiamo, perché il trucco, se vogliamo, è ritagliarci dei piccoli spazi quotidiani, e soprattutto è ancora più difficile farlo quando gli impegni incalzano. E allora noi andiamo dietro le quinte perché vogliamo vedere come se la cava in pieno stress da prove Corrado Tedeschi, che si sta preparando per il Don Giovanni, che nella versione teatrale con la regia di Beppe Arena debutterà proprio tra pochi giorni, il 24 luglio, al Festival della Versiliana. Buongiorno a Corrado Tedeschi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io parlo con Corrado Tedeschi o parlo con Don Giovanni? Perché così mi preparo, cioè, no, la cosa cambia. Devo dire, purtroppo, con gran dolore delle donne, che io facendo le prove mi sto accorgendo di assomigliare molto a Don Giovanni, e questo è un po' inquietante. Eh sì. Perché non è una figura del tutto positiva, tutto sommato, anzi, è un colosso da interpretare, una gran bella prova per un attore. Però come uomo, insomma, immagino che è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non fa neanche a tempo ad innamorarsi di una che già ne vede un'altra, che risveglia i suoi desideri, insomma ahimè, ci assomigliamo. Vi assomigliate, ma è meglio, dottoressa Viola, questo Don Giovanni, poi chissà se si riposava in questa perenne ricerca di donne sempre diverse, non si accontentava mai. Don Giovanni era un personaggio senza riposo in questa frenetica rincorsa alle conquiste, e devo dire che per le donne è un personaggio per nulla riposante. Io saluto Corrado Tedeschi. Buongiorno dottoressa. Abbiamo anche il dottor, ma devo dire che il Don Giovanni per le donne è proprio l'antitesi del rilassamento. Sì. Quindi non frequentate Don Giovanni. Dottor Gargiulo, conferma anche lei che non sono assolutamente d'accordo nell'idea di stressarmi continuamente, anzi anch'io approfitto per salutare Corrado Tedeschi. di stressarmi continuamente alla ricerca di una nuova avventura, di una nuova donna, sarebbe massacrante. No, diventa un lavoro, diventa un lavoro faticosissimo. E allora, Corrado Tedeschi, torni Corrado Tedeschi, come si riposa invece? Perché voi avete degli orari incredibili, prove, io ho degli amici attori che poi quando sono sotto le prove veramente sono irraggiungibili, fate gli orari strani, siete... E sono anche infrequentabili, perché sì, pesanti, vero, mamma mia. Lo so, mai fidanzarsi con un attore. Ma il diciamo che facendo la tournée, facendo questo mestiere, per esempio, una cosa molto bella, divertente e rilassante è la cena dopo lo spettacolo. Direi che forse è il momento più bello. Eh sì, perché uno si tira il fiato Dimentica lo stress, perché comunque è uno stress recitare, uno stress emotivo non indifferente, per cui dopo invece ci si rilassa, si parla per ore a tavola con i colleghi, quando i colleghi sono simpatici, perché capita anche di fare delle tournée con delle persone insopportabili. Adesso come se la cava? Come se la cava? Mi sembra che la compagnia del Don Giovanni sia assolutamente simpatica io e affiatata. Devo dire che mi sto attirando le invidie di tutti i colleghi, perché io recito con 9 attrici donne. Anche il dottor Gargiulo è un po' invidioso. Magari avete bisogno, magari c'è, non lo so, qualche attrice che ha bisogno di farsi misurare la pressione, dare un controllo generale. Dottor Gargiulo, se ha necessità, Corrado, dai i miei numeri di telefono, sto mettendo una buona parola per lei. Chiamerò il dottore per le attrici anche per me, perché ma lei non lo guarda, Corrado Tedeschi sta bene, il Don Giovanni sta sempre fin troppo bene. Allora noi lo salutiamo, perché ormai si è già riposato troppo a stare con noi tra amici, per cui torni a lavorare, a stressarsi un po'. Intanto ricordo il 24 luglio proprio al Festival della Versiliana e poi un po' in giro per l'Italia il Don Giovanni. In giro per l'Italia, noi debutteremo comunque con un'anteprima il 20 a Villa Panfili a Roma. Magnifico. E quindi è una bella prova, divertente, bella, insomma, il teatro è ancora vivo. Meno male, noi verremo a vederla. Un abbraccio al Don Giovanni. Dottore. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Ma è volata questa trasmissione, tra un dubbio, un aiuto, un consiglio, magari ci siamo anche un po' rilassati. Sono arrivati 3 o 4 messaggi in cui i nostri ascoltatori ci ringraziavano proprio per questa puntata rilassante. Parlare di riposo riposa di per sé, ci ha scritto Anna da Torino. Allora io ringrazio i miei ospiti, la dottoressa Viola. Grazie a voi, spero che torni presto a trovarci. Il dottor Carlo Gargiulo, che invito qua in studio quando passa da Milano. Senz'altro, Nicoletta, con piacere, vengo sempre volentieri. Grazie a voi. Io vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Riposatevi un po' oggi, pensate a noi.